sempre detto così, accanto al muro sul mare. Quanto dura la sera, al neon di la stanza, fra scirocco e zanzare. Quanto dura il coraggio di dire domani, e domani è già oggi che voglio di uscire. Quanto dura, se dura, il latrato dei cani nella notte. Tutto questo è un bel dire. Giostre, e che belli soldati di piombo a guardarmi d'estate. Posso udirne le voci, le grida strapiombo, preferivo le frate. E che ieri è un ralampo di aprile, lo so, che l'ha scritto su tutti i giornali. Non li ho letti per noia o paura. Allora vai, vai, e raccontaci ancora, se c'è un giardino in fiore che cresce in altura. Vai, vai, che non c'è perdono, nel vento di chi si è perso nei giochi dell'abbandono. E allora vai, vai, ancora di come si era adulti senza pane di mora. Vai, vai, vai, che non c'è una storia da piangere senza uno straccio. Inutile, inutile come una vittoria. Così per raggiungere il cielo, quanto dura e non cogli il momento che non sembra vero. Quanto dura il coraggio di dir stringere adesso la tua vita in un vortice acceso. Quanto dura, se dura, il successo di un sorriso triste e un applauso confuso.